sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Veloce, supera Coentrao con il pallone incollato al destro, Barnetta dalle parti di Huntelaar, il velo, Fuchs è solo, Fuchs! Lo Schalke trova l'1-0 al Bernabeu, Fuchs, cross e colpo di testa, e il Real Madrid trova il pareggio con Cristiano Ronaldo, 1-1, la palla passa, c'è Maier che è mancino, Maier, Casillas, Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar, 2-1, il calciatore torna a segnare, Marcelo, il cross è buono, Ronaldo! Sul destro, Benzema salta tutti, Benzema, Karim, The Dream, Benzema, 3-2, voilà, Fuchs, rimasto a destra dopo il corner, buona giocata per Sané, che mancino, va sul sinistro, la fa girare Sané, segna al Bernabeu il suo primo gol in Champions League, chapeau, Modric, la palla arriva ad Huntelaar in aria, Huntelaar per riaprirla, Huntelaar, la riapre, ci regala uno splendido finale, il cacciatore, 4-3, per lo Schalke. Ma i fischi non sono, quando sono meritati li dobbiamo accettare, perché ci aiutano ad essere più motivati e più concentrati le prossime partite. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Daniele Bonamici in redazione, cronaca di una storia pazzesca. Vergüenza è la parola che Cristiano Ronaldo, dopo aver segnato una doppietta, ha deciso di non parlare più uscendo dal campo tra i fischi della sua gente, del Bernabeu. È vero, c'è stata una sconfitta 4-3 con lo Schalke, ma anche un passaggio ai quarti di finale perché l'andata era finita 2-0. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, storia strana questa. Per il nostro amico Carletto Ancelotti oggi c'è un nuovo hashtag in spagnolo, Ancelotti via subito. È veramente la classica storia che non ha senso. Sì, sì, non ha senso, forse il motivo per il quale io e te non ti chiamo è questo, che io faccio veramente fatica a entrare nella testa di tifosi che hanno alzato la decima. Qualche mese fa, che sono a meno uno dal Barcellona, che sono stati ovviamente in testa, e sicuramente la squadra stava avendo un atteggiamento preoccupante, ma se poi parliamo anche dell'aspetto tecnico di Real Schalke di ieri, però mi sembra incredibile, però ripeto, io non vivo per una squadra di calcio come fanno invece i tifosi, e quindi posso anche capire che in queste circostanze ci possano essere i fischi. Mi sembra una follia, ecco, mi sembra sinceramente una follia, e mi verrebbe da dare subito ragione a Cristiano Ronaldo. Ma immediatamente, 75 gol in Champions League, praticamente segna più di un gol a partita con la maglia del Real Madrid, fenomeno, fuori classe, ragazzo a posto se vogliamo, trascinatore, e lo fischi. Ma perché? Perché ha fatto la festa quel giorno, non gliel'hai ancora perdonata? Ma tu sei loco? Bisogna essere locos. A proposito di spagnoli, domani gioca a Napoli, c'è la messa pagana delle italiane in Europa League. Stamattina a Benitez è stata fatta una domanda maliziosa. Gli è stato chiesto: ma sai che il Napoli è la squadra che ha il più alto fatturato tra quelle rimaste in Europa League? Ergo, usando le tue parole, la vincete voi, Benitez. Il Napoli è la società tra le 16 con il fatturato più alto, un argomento che lei ha toccato spesso. Se ci dovesse... Il fatturato più alto? Sì. se ci dovesse consigliare a noi scommettitori qui della sala stampa di puntare sul Napoli, ce lo consiglierebbe? L'Inter c'è nell'Europa League, no? Sì, però sono sicuro della statistica che le ho. È sbagliata, perché no. L'Inter ha un fatturato nettamente maggiore. Le assicuro maggiore. Di no. Vabbè. Neanche la Roma. Al di là di tutto questo. Però volevo sapere se lei ci consiglia o meno di puntare sul Napoli. No, io non che lo faccia lei. Io solo ho fiducia nel lavoro che facciamo noi. Non scommetto. Perché è stato conto, non gioca a pallone. Poi parleremo anche di un'altra cosa. Saluto il nostro Nicola Lombardo, nostro amico. Sì, Nicola Lombardo che è intervenuto subito. A correggere il tiro. Falsa statistica. Non so, però dopo viene Benignazzo per spiegarci questa storia del Milan e di Mister B senza la N o di Mister Pink, quell'altra smentita. È una vicenda complessa che oggi rimbalza da tutte le parti. Intanto Galliani continua a difendere, sembra l'ultimo dei moicani, a difendere Inzaghi. Ma Firenze è decisiva, signor Galliani. Ma no, ma sono 12 partite importantissime, bisogna scalare un po' di posizioni, tutto qua. Per Inzaghi comunque rimane decisiva. Ma che decisiva? Vabbè, Pier, parliamo anche di questo, ma io prima del traffico ti voglio far sentire un'altra cosa. Ti sarei fatto già sul web quattro grasse risate per i nostri ascoltatori che ancora non avessero avuto il piacere. Ezio Capuano, che è l'allenatore del... Vai. Arezzo. Eccolo qua, poi il traffico. Ma intanto che si gioca con estrema immediatezza è un fatto positivo dopo una prestazione non bella, quindi vuol dire che c'è rabbia e quindi voglio che l'Arezzo rigiochi da squadra d'Arezzo, rigiochi da squadra di Capuano, che io ritrovo in campo dei maiali assatanati e una banda di ignoranti, non una banda di femminucce. Tutti convocati. Sabemos lo que dicen y el partido va a acabar. ¿Qué dice Cristiano? Qué vergüenza, qué vergüenza. Al menos eso es lo que entendemos nosotros. Vergüenza, sí, vergüenza. Parece decir eso, sí. Después Cristiano ha salido a zona mixta y le ha dicho a todos los periodistas que no va a hablar hoy ni va a volver a hablar hasta que acabe la temporada. Es decir, no volverá a hablar con la prensa lo que queda de Liga y de Champions 2014-2015. Allora, questa è la cronaca di quello che è successo dopo. Cristiano Ronaldo è uscito dal campo, vergüenza, ascoltando quei fischi. Uno dice 60 gol in 59 partite di Champions con la maglia del Real Madrid, cosa devo fare di più per non beccare fischi? Paolo Condò, buongiorno, alla Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo. Eccomi qui, ciao ragazzi. Ciao. Pronto, ecco, aspetta, ho fermato la macchina e ho staccato le cuffiette perché merita di parlare bene di un tema così interessante. Così interessante, ma così assurdo. Tra l'altro venerdì in Condò Confidential su Gazzetta TV avrai questa intervista ad Ancelotti. Allora, intervista ad Ancelotti, e naturalmente l'intervista è stata fatta qualche tempo fa, quindi non gli potrò chiedere... non è che sono impazzito che l'intervista non gli chiederò di quello che poi c'è casi poi Pier... ore è stata però fatta tu Paolo qualche tempo fa dovevo immaginare, hai ragione. Se avessi immaginato sarei un miliardario anche 3-4 con le scommesse. Poi ci sono un sacco di risvolti, Pier, anche con Casillas che ha giocato un'altra pessima partita, è stato uno di quelli fischiati, però lì i fischi potrebbero anche starci per altre ragioni. Va da Ronaldo e gli dice vieni in mezzo al campo a beccarti le fischiate, e questo dice ma sì, ciao. Poi è andato però Ronaldo, sì. Poi è andato, ha fatto una faccia bellissima, devo dire. Nell'ascoltare i fischi, secondo me, ha anche meditato: io l'anno prossimo me ne vado. Mm. Ma infatti, questo pensavo, che se tutti questi ragazzetti, Carlo, se si fossero accogliati della Spagna, cioè noi li accogliamo a braccia aperte. Assolutamente. Abbiamo destinazioni stupende, città assolutamente. Vabbè, Ancelotti, Milano. Ancelotti, io lo voglio con tutto il rispetto per Conte, che ora farà sicuramente un notevole europeo. Però io Ancelotti trovo che abbia ormai il cursus honorum dei generali romani che aspirano a diventare imperatori, no? Cioè, nazionale. Sì, secondo me Carlo deve andare in nazionale prima o poi. Senti, ma dove stanno, secondo voi, domanda che faccio a tutti e due, da dove possono arrivare dei fischi a una superstar tutt'altro che bizzosa, che segna più di un gol a partita in Champions League con la maglia del Real Madrid, all'uomo che ha alzato la decima, che quest'anno ha già vinto il fatemelo chiamare il mondialito, che ha fatto il record delle vittorie consecutive, che deve fare di più? Ha un momento di difficoltà, di crisi, e perché i fischi? Perché allora il popolo spagnolo, che sicuramente io trovo il più vicino a noi e col quale più ci legano rapporti di facile comunanza, penso sia un ottimo testimonial come me di questa cosa, dal punto di vista calcistico ci disprezza tutto ciò che è italiano in una maniera impressionante. Soltanto Arrigo Sacchi è riuscito, con le sue fantastiche partite al Bernabeu, del suo fantastico Milan, è riuscito per un momento a rovesciare la frittata. Dopodiché nulla e nessuno ha più fatto cambiare idea agli spagnoli, a tanti giornalisti spagnoli, giornalisti nostri amici, che sostengono un giorno sì e l'altro pure, che vedere la pittura asciugarsi sulle pareti sia più emozionante che vedere una partita del campionato italiano. Sì, sì, poi sì. Può essere che non si emozioni, non è anche alzando la decima, questa è un'altra storia. Ma è Capello ha vinto due campionati. L'hanno sfondato. Ha vinto il campionato e è andato via, perché non ce la faceva più. E una volta è stato addirittura mandato via la seconda, pur avendo vinto il campionato. Perché loro tutto ciò che nella loro testa è difensivista è una cosa che e c'è una compattezza, mentre in Italia noi la critica, i tifosi, gli allenatori, tutte le varie componenti abbiamo tante idee diverse e questo lo rende divertente perché polemizziamo, ci arrabbiamo così. Io odio la difesa a tre, è notissima questa cosa. C'è chi invece non sa farne a meno, ma va bene, discuterne. Loro, io ho visto uno dei loro allenatori, tale Mendilibar, adesso non so dove sia finito, quando l'avevo visto io era col Valladolid, che aveva perso 7-0 al Bernabeu, ma proprio da un asino colossale, perché aveva beccato tutti i gol uguali, fuori gioco a centrocampo, triangolo dei due attaccanti del Real Madrid e uomo che va da solo in porta. Il giorno dopo coperto di elogi. Coperto di elogi su Marta. Sono due elementi. Questo qui è bellissimo, secondo me. Cioè, c'è questo seguroralismo, se vuoi, no? Questa cultura. Sì, Segurola è proprio il massimo. Segurola è il capostipite, insomma. È proprio la cultura del calcio sempre offensivo. Tra l'altro, ieri il Real Madrid si è perso la partita, secondo me. Essendo io un reazionario da questo punto di vista, ti dico che l'ha persa perché c'ha avuto poco equilibrio, non certo perché ha avuto troppo equilibrio. Quindi ieri l'ha persa la spagnola, non l'ha persa l'italiana la partita, secondo me. Ma c'è questa componente che è tattica. Poi secondo me ci può essere anche l'elemento più banale, che a Real Madrid non sono abituati a perdere due partite di fila, insomma. Sì, però Pier, mi spieghi, va bene questo anti-italianismo, però purtroppo Cristiano Ronaldo non è nato a Gallarate ma in Portogallo, lui è portoghese, lui segna 60 gol in 59 partite di Champions con la maglia del Real Madrid e prende i fischi lo stesso, questo in non Italia, ha senso. In Italia non farebbe 60 gol, secondo me. Sì, ho capito, ma lì fa, che senso ha fischiare un giocatore di questo tipo? Cioè, come fischiare Maradona, come fischiare Messi, fischiare la Gioconda. In Italia non farebbe 60 gol, perché in quella partita, quel 7-0 che ti stavo raccontando, ne aveva fatti 5. Ma in Champions, sto parlando di Champions, 60 in 59 di Champions. Sì, voglio dire che Cristiano Ronaldo sia un campione favoloso, inarrivabile e nei fatti. Però ieri il Bernabeu non ha saputo essere selettivo. Non poteva evidentemente applaudire Cristiano Ronaldo, che comunque gli ha tenuti i piedi e li ha salvati ieri, e fischiare Ancelotti e il resto della squadra. Ma un'altra verità comunque è che la rosa del Real Madrid è corta, perché con tre infortuni tu devi mettere Arbeloa, secondo me è inadeguato ormai a giocare a quei livelli. Varane, il prossimo che mi dice che è il Pogba delle difese, gli sputo in faccia perché... Ma beh, si dice questo, si dice sì, che la Francia ha due grandi giocatori. Pogba e Varane campo e Varane in difesa, ma per favore. Poi Bale è sicuramente un ottimo giocatore, però è uno che corre come un dannato e che ha un bel tiro. Basta, tatticamente la follia di cedere Di Maria, loro continuano a pagarla. Certo. Aveva trovato l'equilibrio perfetto dentro una squadra ultra offensiva. L'ultima cosa che va aggiunta, non piccola, è che Florentino Perez, che fa questi acquisti, poi è il tipo di presidente che pretende di vederli in campo. Certo. Cioè lui compra 10 centravanti e li vuole tutti e 10 in campo. Devono giocare, poi vedi tu. Ma devono giocare tutti e 10. Sì, senza contare che Ancelotti l'ha detto a Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale, non rinuncio, questo l'aveva detto alla vigilia. Bale si è anche trasformato in un attaccante che non ha più voglia di rientrare, questa è un'altra, certo, è un'altra storia. L'anno scorso lui giocava 4-4-2 in fase difensiva. Sì, sì. Ieri sì. I tre davanti, nessuno, giocavano come se nella metà campo del Madrid ci fossero i pescecani, sì, cioè non varcavano la linea di metà campo all'indietro, pur vedendo la squadra che soffriva da mano. Grazie Paolo, ciao a tutti, ciao, buona ciao, giornata, ciao, ciao Pier. Pier, voglio chiederti ancora una cosa prima di cominciare con gli ascoltatori, riguardo a stasera, perché sempre rimanendo in prospettiva Champions, poi torniamo naturalmente su questo argomento. Io sono molto curioso di capire quanta ruggine c'è anche sul Bayern di Monaco, perché sai, ho trovato ieri questo discorso, di questo parallelo tra il Bayern in un campionato già stravinto a febbraio e la Juventus, 0-0 in casa dello Shakhtar. Stasera vediamo quanta ruggine c'è addosso ai tedeschi. Stasera vediamo il paradosso del campionato tedesco, è che forse con una sessione di capello dall'anno scorso sta diventando poco allenante per il Bayern, nel senso che è un campionato nel quale l'adrenalina di fatto sparisce già a metà stagione, non è il massimo. Da un lato ti toglie certamente tutta una serie di fatiche fisiche e quindi ti dà la possibilità di fare turnover, di poter arrivare più pronto agli appuntamenti importanti in Champions. Dall'altra però l'adrenalina, il ritmo partita è qualcosa di molto importante. Quindi sono curioso anch'io di vedere che succede, anche se poi penso che Bayern la porterà a casa. Ma sì, però non vedo un Bayern in questo momento completamente in controllo. Quindi magari stasera qualche... un quarto d'ora, non dico di panico, ma comunque di tensione di difficoltà potrebbe anche attraversare. Ma ti dico, questo è un parallelo che potremmo magari un po', in maniera un po' forzata fare per la Juventus. Oliviero Bergamo, 800 24 00 24, per i nostri ascoltatori su tutti i temi che vogliono. Buongiorno a tutti, compreso il signor Capuano. Complimenti per la trasmissione, finalmente sono riuscito a chiamarvi, non mi avete mai preso in considerazione. No, ma come, noi l'abbiamo preso in considerazione moltissime volte. Sto scherzando, è solo un complimento, vuol dire che c'è molta gente che vi vuole chiamare. Quello sì, per fortuna. Volevo dire solo una cosa, io ho visto, non sono riuscito a vedere la partita ieri sera, ma ho visto le immagini dei gol. Mi sembra che il vero problema del Madrid, a parte che ci sono un momento calo fisico o roba del genere, sia proprio anche il portiere. Sto Casillas mi sembra che non sia più in grado di giocare a certi livelli, sarebbe forse il momento di, oltre a comprare dei grandi giocatori in avanti, anche cercare un po' più affidabile. Se... ogni tiro sia un gol ormai. Questo già da tempo l'aveva capito Mourinho qualche anno fa. Sì, ma questo è evidente. Mi sembra che Diego Lopez sia invece di contro una delle poche cose positive del Milan quest'anno, facendo un paragone un po' ardito, ovviamente le situazioni sono molto diverse, mi sembra che Diego Lopez stia facendo meglio di Casillas, quindi, ma credo che Casillas sia una delle altre, diciamo, degli altri condizionamenti che in qualche modo Ancelotti debba subire, perché è un bel condizionamento, nel senso che fa alla fine, se tu sei, hai con il presidente Florentino Perez che ti compra Cristiano Ronaldo, che ti compra chi vuoi tu, insomma, anche chi vuole lui, come diceva Condò, però insomma è chiaro che a Madrid si stia bene, insomma, quindi alla fine ci sono dei piccoli prezzi da pagare. Credo che Casillas, con la sua influenza all'interno dello spogliatoio e anche mediaticamente, sia uno di questi piccoli prezzi. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo, ragazzi. 800 24 00 24, numero verde. Io sono molto curioso anche di capire cosa sta succedendo in casa del Milan. Lo fa tra asiatici di varia provenienza, thailandesi, cinesi, non filippini, Ferrero. Ferrero non sono filippini, uno thailandese, l'altro cinese. Chiariamoci, borsa. Io sono uno che ha combattuto le nefandezze e le schifezze, prendendomi delle denunce anche dagli ebrei, quando rimembrai i forni crematori. Per me qualsiasi giocatore che va in campo e non spinge al massimo, per me non deve giocare più a calcio. Tutti convocati. Allora, mi ha raggiunto, non stiamo spremendo un limone, però mi sembra il caso, Marco Bellinazzo al Sole 24 Ore. Pier? Ciao, no, buongiorno. Invocare la sua discesa in studio ed è a parte. Tu hai invocato. Vabbè, insomma, l'abbiamo fatto. Parlare, no? Di B. Prima però parliamo con un paio di ascoltatori al volo. Omar D'Asti, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Genta, buongiorno Pardo. Dica. Grazie innanzitutto. Allora, 30 secondi. Che rione di Asti? San Lazzaro. Conosci? Beh, c'è il Palio di Asti, il palio più antico del mondo, sì. Grandissima, enorme qualità, degli anni a settembre. Dica. Grazie vino, Prego. Andiamo. Allora, vi spiego il senso della mia telefonata. Il 16 compio 40 anni e ho finalmente capito la verità sul calcio italiano. Allora, per spiegarvelo vi faccio un parallelismo. Voi pensate al Truman Show di Jim Carrey. Sì. Allora, noi siamo Jim Carrey, i tifosi, che vediamo uno spettacolo televisivo, radiofonico, fatto di Carezza, Pardo, Piccinini, belle ragazze, replay. Poi andiamo allo stadio. Io sono andato a vedere Juventus-Fiorentina. Vi posso garantire che è come quando Jim Carrey sbatte con la barca contro la piscina. Ma perché? Perché quando uno vede il giocatore nell'arco della sua azione e non semplicemente attraverso il singolo gesto tecnico, il replay, il primo piano, non lo so, la sigla televisiva, i colori, è un'altra cosa. Vi posso garantire che alcuni... bello. No, è peggio. Ah, è peggio. I veri fenomeni siete voi. No, i veri fenomeni siete voi. Cioè, siamo il grande fratello e vi facciamo vedere quello che vogliamo noi. Marco Bellinazzo racconta gli affari che gli convengono e su quali guadagna una percentuale. Ma non credo che ci fosse malizia, credo che ci fosse invece, no. Se non ho capito male, una genuina esaltazione di robe che non facciamo solo in Italia, che ormai insomma le immagini televisive io ho capito, ci vendete qualcosa di finto, cioè ci vedete una realtà virtuale, cioè la differenza tra andare a vedere una partita allo stadio e guardare in televisione, no? Io sono per andare a vedere la partita allo stadio, ma io sempre tutta la vita, ma secondo non c'è me vita. È meglio. Poi sicuramente alcune cose degli stadi italiani non si tolgono, perché ci sono degli stadi con delle piste d'atletica, perché ci sono degli stadi perché non c'hai banalmente il replay, banalmente quando mi capita qualche volta, è un'altra cosa, uno si abitua, ci sono delle volte, lo possiamo dire, insomma ci sono delle sale alla stampa, delle tribune stampa, meglio, di stadi dove non c'è magari, sono pochi, dove non c'è il monitor per tutti e ci sono magari colleghi di carta stampata che chiamano in redazione per sapere se era lì, se hai gol, questo però insomma secondo me l'adrenalina dello stadio, il luogo dove le cose succedono, è eccezionale, un po' come la differenza tra teatro e cinema. Ma sì, ma è evidente, Marco. No, forse provo a dare una interpretazione diversa, cioè nel senso che noi ci stiamo sforzando da qualche anno di raccontare un calcio ancora bello, quello della Serie A, e poi magari andando a vedere dal vivo quello spettacolo ci si rende conto insomma che il livello è molto più basso di quello tecnico di altre leghe, forse potrebbe essere un'altra interpretazione, insomma, ma stiamo non lo so, facendo l'ermeneutica, certo, l'interpretazione dell'ascoltatore. Siamo al Truman Show, Gennaro, Roma. Sì, buongiorno, complimenti. Però vabbè, non ho capito cosa voleva dire il ragazzo di prima, però visto che ci troviamo volevo capire un attimino, cioè, ma voi cosa pensate riguardo le partite di andata e di ritorno di Inter-Napoli e Napoli-Inter? Stesso risultato, solo che l'andata a un quarto d'ora dalla fine, in totale 3 tiri in porta, e finisce 2-2, segna prima uno, dopo un minuto segna l'altro. Poi dopo invece al ritorno domina il Napoli per 60 minuti, dopo il 2-0 il Napoli si chiude in difesa. Vabbè, comunque volevo fare un'altra domanda. Sì, questa era una malignità, mi pare di capire, era una considerazione maliziosa. Questo guardi, De Laurentiis mi pare in un ritiro estivo disse che in Cina il 100% delle partite sono truccate. Sì. In Europa l'80%. Vabbè. Però comunque. De Laurentiis risulta, Marco? No. non risulta. Agli atti attualmente non risulta. Poi voleva dire No, cioè se prende in un ritiro a Dimaro di De Laurentiis. Sì, ma lì sì, ma uno show sono, che il presidente fa apposta per attirare l'attenzione. Di Truman Show, no? No, vabbè, comunque il discorso dell'Europa League, le italiane, cosa ne pensate? Cioè, visto che c'era la domanda pure sul Napoli del fatturato, quindi significa che anche in Champions League la vincerà il Real Madrid? I fatturati, continuo a pensare che gli estratti conto non giocano a pallone. Il Napoli certamente è da corsa, al di là del fatturato, per vincere questa Europa League. Pier, sì, ma sai, tutte da corsa tranne il Toro, che però vabbè, il Toro va dove vuole, non è un problema. Sì, i sorteggi non sono stati semplici, quello del Napoli mi sembra migliore onestamente, però possono andare avanti, molto dipende, l'ha dimostrato questa Europa League anche in maniera abbastanza sorprendente in positivo, molto dipende da noi. Almeno fino adesso molto dipende da noi. Poi è chiaro che il Wolfsburg sta facendo cose eccezionali, lo Zenit è una squadra molto forte, Fiorentina Roma è un derby, quindi una esce. Adesso, da adesso in poi è chiaro che bisognerà alzare la scella del rendimento, però io credo che la grande maggioranza dei problemi che abbiamo avuto noi negli ultimi anni in Europa League fosse dovuta alla nostra scarsa considerazione di questa manifestazione. Adesso possiamo divertirci, quindi sì. Io dico, se la Fiorentina e il Torino hanno fatto delle imprese, perché se il Torino ha fatto un'impresa col Bilbao, perché non la può ripetere con lo Zenit? Ma poi al Torino non si chiede certo la luna, magari la puoi chiedere all'Inter, a chi esce tra Fiorentina e Roma e magari al Napoli. Pier, spostati un pelo verso il cornicione di Mediaset, che ti sentiamo meglio. Sto guidando. Verso il cornicione di Mediaset. Sì, va bene, okay. Allora, ma noi siamo qui, abbiamo convocato Venerazzo per parlare di Pink, di thailandesi, di cinesi, non di filippini, attenzione, al momento filippini non risulta, però la verità è che noi sapevamo già tutto domenica. Marco Brignazzo, sai perché? Che ce l'ha detto Berlusconi. Beh, chiaro. Voglio regalarvi in esclusiva nazionale uno scoop importante. Hai visto che ospitarlo ogni tanto, prego. Allora, ho ceduto a Mr. Bean il 30% del Milan per 250 milioni. Era sui giornali, però oggi, però detto da lui, Bean. comunque Mr. Bean. Mi permetto, no. B senza la N, Presidente. No, comunque, insomma, abbiamo la grazia. Prego. Non sapevate che io ho fatto l'affare del secolo, perché ho ceduto a Mr. Bean il 30% della fortissima rosa del Milan. Allora, questo ci ha detto Berlusconi. Beh, credo che rifletta un attimo la confusione che regna. Ovviamente era uno scherzo, ma l'avete capito, inutile. Cioè, no, stiamo inutili sottotitoli che per radio non si vedono. Facendo una certa fatica, in effetti, a seguire l'evoluzione di queste trattative, anche perché per quella che la storia finanziaria e sportiva mi ha insegnato, insomma, le trattative vere vengono conosciute alla fine. Io quando ho svelato l'affare Inter-Toir ho lavorato per un mese, rischiando anche di farmelo bruciare, ma perché era una trattativa che, come si è visto, poi era una trattativa seria. Ora, non voglio dire che non siamo di fronte a qualcosa di serio, perché meno di un mese fa ho detto alcune cose in questa trasmissione. La prima, che c'era per la prima volta un mandato a vendere serio da parte di Berlusconi, e mi sembra questa sia confermata. Dopodiché io ho parlato di un fondo di Singapore e mi pare che per la prima volta in questi giorni si inizi a parlare, al di là di thailandesi e di cinesi, anche di uomini di Singapore. La verità è difficile conoscerla, ma per capirla secondo me bisogna un attimo guardare ai piani alti, cioè quello che sta succedendo sopra il Milan. Allora, noi abbiamo una situazione in cui Berlusconi per la prima volta in questi ultimi 2-3 anni non ha strettamente la necessità di vendere il Milan, perché con una serie di operazioni finanziarie che ha realizzato negli ultimi mesi, diciamo, la galassia Fininvest ha incassato più di 1 miliardo di euro. Sì. Quindi Berlusconi può staccare un paio di assegni da, diciamo, da 50 milioni per ripianare perdite quest'anno, del prossimo anno. Non ha necessità immediata di vendere, quindi può scegliersi l'interlocutore, ed è quello che sta facendo, si sta scegliendo l'interlocutore più adatto. L'idea del iniziale del fondo di Singapore era quella di comprare il Milan nella sua totalità, da lì l'offerta di 970 milioni rifiutata da Berlusconi. A questo fondo peraltro si è avvicinato anche Mr. B, il thailandese, che inizialmente voleva fare forse un'offerta individuale, ma ora si è inserito, diciamo, in questa, in questa cordata. Il problema di questo fondo di Singapore è che ha molte risorse, ma essendo a Singapore, paese blacklist, centrale diciamo di smistamento di capitali di varia natura, occorre una due diligence molto accurata da un lato e dall'altro. Il comunicato della Fininvest di ieri ci dice che non esistono ipotesi di cessione della maggioranza. Ecco, appunto, Marco, adesso abbiamo il traffico, poi andiamo su questo tema, perché la, la storia è questa. Sui giornali abbiamo, leggiamo da giorni che Mr. B avrebbe inchiostrato per il 30% del Milan a 250 milioni con 25 di penale per Berlusconi se intende far saltare l'affare entro maggio. Entro maggio, con prelazione per il 51% delle quote. Sulla storia di Mr. Pink invece torniamo, questa ve la racconto dopo. Ecco i vostri nomi: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange e Mr. Pink. Perché io sarei Mr. Pink? Perché tu sei un frocio, va bene? Convocati. Voglio precisare che era uno spezzone tratto dalle Iene di Tarantino, eh? Non stiamo disquisendo sulle preferenze di Mr. Pink, che peraltro la sai questa storia, Pier? La storia di quel tweet della fotografia? No. Allora, Giorgio De Luca me l'ha raccontata così: cioè, la sua ex fidanzata è stata lasciata e quindi avrebbe trafugato questa foto di Mr. Pink intendo ad inchiostrare dei contratti ad Arcore con Berlusconi. Da lì l'ha messa su Twitter, naturalmente, e da lì la storia secondo cui avrebbe preso il Milan. Metto la foto, guarda che ha preso il Milan. Ma mollate, ha preso il Milan. Il mondo, com'è strano il mondo, eh? No, le donne muovono il mondo, dai. Anche in queste cose. Senti, ma tu come la vedi questa assenza? È quello che volevo chiedere anche a Marco Bellinazzo. Questa assenza di smentita della Fininvest, perché sai che negli ultimi anni arriva puntuale con una cartella esattoriale, nel giro di poche ore. Mi sembra smentita. Che la cosa che tra virgolette mi spettisce il nostro guru è che la smentita c'è sempre, ma è sempre una smentita tesa a dire che il Milan sta passando per delle quote di strano. Insomma, non è che il Milan dica no, il Milan e Fininvest dicono non è vero che il 51%. Da un certo punto di vista, con una interpretazione quasi estensiva, forse ci stanno dando la notizia. Non so se Berinato la legge come me. Assolutamente sì, io sto dicendo questo, che rifiutata quell'offerta di Singapore, si sono, come dire, aperti altri scenari, proprio perché il gruppo Fininvest ha raccolto risorse importanti da tante operazioni, per cui non ha necessità nell'immediato di svendere il club rossonero. È chiaro che in sede Marina, Pier Silvio e Confalonieri puntano a una cessione totale perché hanno 51%. Altri dossier, ma no, totale, non, cioè, 51 totale. Non ha senso, perché ti prenderesti una società in cui comanda un altro, in cui in caso di perdita dovresti ripianare il 49% delle perdite, non ha senso. Ci sono, c'è la partita del CS Libri, c'è la partita Rai Way delle Torri, e quindi vorrebbero concentrarsi su quello. Però ripeto, non c'è necessità di cedere il Milan. Berlusconi allora si sta guardando intorno e sta attendendo soprattutto di avere in mano l'asso. L'asso quale sarebbe? Cioè l'autorizzazione alla costruzione di uno stadio. A quel punto caso, diventerebbe molto più appetibile per chi viene ad acquistare. E soprattutto per chi, come dire, paga una fee per entrare con il 30%, con il 35%, con il 25%, pur di costruire lo stadio, per avere uno stadio vetrina e per entrare in Italia per fare affari sulla costruzione degli stadi. Certo. Identikit che mi porta al gruppo Wanda e a Infront. Sì. Hai capito? Che intrigo internazionale meraviglioso, Pierluigi. Nemmeno così improbabile, anche se diciamo, abbiamo avuto Bogarelli ospite un mesetto fa, era, no? E mi sembra che chiaramente non escludesse nulla sulla possibile orizzonte strategico dei svinesi. No, a me sembra che tutto torni e mi sembra anche che torni con il pensiero di, per quello che ho capito, insomma, mi sembra che comunque Berlusconi abbia avuto anche delle offerte in passato, sia stato sempre abbastanza negativo sull'idea di tutto, ma fosse invece interessato inevitabilmente, legittimamente, a cercare dei capitali freschi, che poi voglio dire sono la soluzione ideale per tutti. Sicuro. Trovi dei finanziatori che vengono, è chiaro che gli devi concedere un diritto di prelazione caso di cessione del 54%, questo è evidente, il minimo, però insomma riesci ancora ad avere la pesca, insomma è come trovare un socio che è ingombrante ma fino a un certo punto sicuro ti togli il prestigio. Poi molto dipenderà anche, onestamente lo dico, dagli orizzonti psicologici di Berlusconi, nel senso che nell'ultimo mese abbiamo visto un gruppo molto più attivo sul mercato, anche qui legittimamente, insomma, al di là di tutti i discorsi di antitrust sul 51%, sul controllo dello Stato, tutti i discorsi che ovviamente possono essere trattati in altri spazi, non certo in un programma sportivo, però comunque il dato politico è che mi sembra che Mediaset si stia muovendo moltissimo, c'è questa offerta per RCS, per i libri, insomma mi sembra che stia, non voglio dire tornare a fare l'imprenditore perché l'ha sempre fatto, ma stia tornando a essere assolutamente protagonista sul piano imprenditoriale. Ieri c'è stata una sentenza non da poco, oppure quella sicuramente avrà un psicologico, visto che Silvio Berlusconi rimane comunque inevitabilmente il centro del villaggio del Milan, almeno fino a nuove notizie, quindi insomma anche quello magari potrà avere un'influenza, magari sarà un'influenza che darà ancora più energia. Sì. Pier, ti ringrazio, grazie, sentiamo domani da Firenze. Ciao Pierluigi Pardo. Marco, posso chiederti in 10 secondi un flash sul Parma, se bastano 10 secondi? Beh, siamo agli sgoccioli, 19 marzo è confermata l'udienza fallimentare, entro domani Mamenti dovrebbe portare i libri e la documentazione ai PM, il quadro è sempre più fosco, mi sembra che si vada verso l'ipotesi, insomma, di un fallimento con esercizio provvisorio fino a giugno, coperto dalla Lega, insomma, come ci ha raccontato Tavecchio finora. Grazie Marco, a presto. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per il GR e poi torniamo con tutti i temi che volete, con voi ascoltatori. 800 24 0024, siamo qui. Una persona ha scritto qualcosa che non so nemmeno in questo momento spiegare, perché che io sia un terrone sono orgoglioso di esserlo, perché non si può rinnegare dove si è nati, quindi io sono orgoglioso di essere un terrone e sono fiero e onorato di allenare una delle città più civili d'Italia e di rappresentare, di essere garante di un popolo di cui sono illimitatamente innamorato. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Allora, ci tengo a dirvi che per quanto riguarda il primo tempo del derby della cultura ce l'abbiamo fatta, grazie al Comune di Firenze, grazie al sindaco Dario Nardella. Domani questo derby della cultura che abbiamo promosso, questa risposta di civiltà, piccola se volete, qualcuno vorrà dire demagogica e sbaglierà, però questa risposta di civiltà ai vandalismi dei tifosi olandesi a Roma ci sarà a Firenze, perché ingresso gratuito ai musei civici fiorentini per tutti i possessori di un biglietto della partita Fiorentina-Roma. Tra l'altro, per l'occasione, apertura straordinaria del Museo del Novecento fino alle 19, orari consueti invece per il Museo di Palazzo Vecchio e gli altri musei civici, con la Cappella Brancacci, Museo di Santa Maria Novella, aperti fino alle 17:30. Adesso, domani quindi, derby della cultura che ci sarà a Firenze nel prepartita, aspettiamo anche la risposta di Roma, di Marino, e certi che arriverà per la partita di ritorno. Silvio Chieti, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione, mi senti? Sì, bene. Sì, ciao, senti, ciao. Volevo proporti una riflessione, diciamo, di carattere antropologico, se vuoi. Secondo me, sì, i grandi allenatori che sono stati dei calciatori, essenzialmente sono stati dei grandi centrocampisti, cioè Simeone, che ne so, Capello stesso, e Conte. Inzaghi, che ha fatto una vita sulla linea del fuorigioco, non ha mai passato una palla in vita sua, non ha mai fatto un assist, cioè secondo me non sarà mai un grande allenatore. Ma non che lo ne so. Pensi? Beh, che è una riflessione interessante, che statisticamente può essere anche vera. Ci sono anche però grandi allenatori che non sono mai stati giocatori, Mourinho. Io parlavo di quelli che vengono dal campo. Sì, di quelli che vengono dal campo, sì, però vale ancora la mia risposta. Ci sono grandi allenatori, e mi viene in mente Mourinho, mi viene in mente Arrigo Sacchi, me ne vengono in mente diversi che non hanno mai fatto i giocatori. Poi, per esempio, vedi Van Basten, per esempio, come allenatore, sì, non ha mai fatto un granché. Cruyff qualcosa. Beh, sì, però Cruyff era qualcosa, un giocatore totale, poteva giocare anche in porta. Un genio della lampada assoluto. Sì. Questo in parte è vero. Ferguson faceva l'attaccante. Vabbè, l'occasione, come si dice, l'eccezione. Roberto l'eccezione. Mancini faceva. Ecco, Mancini è un altro che era allenatore già quando giocava a 20 anni. Capito, però c'era l'attaccante. Cioè, possiamo dire che possiamo fare una statistica, adesso non ce la faccio, sì, abbi pazienza, sì. Però sì, si può fare una statistica che in parte potrebbe confermare quanto pensi, però. Roberto Mancini può essere l'eccezione a confermare la regola, Alex Ferguson può essere l'eccezione a confermare la regola, magari ne scopriamo anche qualcun altro. Silvio, grazie. Alberto, Milano, buongiorno. Buongiorno, non so se Belinazzo è ancora in linea. Ma ha salito di sopra il suo scranno. Tanto uguale. Sì, Berlusconi avrebbe rifiutato 970 milioni, adesso sì. Si parla di questi di qualcuno, di questi nomi strani che potrebbe comprare il 30% per 300 milioni, quindi sta squadra vale 1 miliardo mal contato. Sì. Anche allora si conferma che Moratti era un deficiente, come vuole la vulgata a Milano. Sapete che a Milano si dice Moratti seguiva l'Inter perché la famiglia voleva fuori dalla gestione dell'azienda, sì, che poi non è del tutto vero, ma no, infatti. Per carità. Però ecco, adesso senza conoscere in dettaglio i conti dell'Inter, perché poi probabilmente non so se si sapranno mai con precisione, ma mi sembra che ci sia una disparità un po' eccessiva tra le due squadre, o no? A svantaggio dell'Inter, lei dice? Cioè è molto più pesante la situazione debitoria dell'Inter, certamente. Beh, anche il Milan si dice che abbia i suoi 200-300 milioni di debiti, sì. E poi comunque non si può pagare 1 miliardo una squadra come il Milan, secondo me. Se qualcuno ha pagato 200 milioni o quello che ha pagato l'Inter, che poi dicono che abbia dato ancora di meno. Sì, allora, l'Inter aveva 1 miliardo di debiti, ma non è vero. Sì, la situazione debitoria dell'Inter è più pesante rispetto a quella del Milan. Comunque la situazione per quanto riguarda il Milan mi sembra abbastanza chiara, perché Beninazzo ce l'ha spiegato in maniera perfetta. Mr. Pink, quello della foto su Twitter, dimenticatevelo, ok? Smentita, quella non c'è. C'è questo Mr. B che è amico di quel fondo di investimento di Singapore, che aveva effettivamente recapitato l'offerta cui lei ha fatto riferimento per acquistare la totalità del Milan. e si tratta grosso modo di una cordata interessata alla totalità del Milan. C'è un terzo fronte che è quello di Banda, di Infront, che ha appena acquisito Infront, gruppo cinese potentissimo, che avrebbe tutto l'interesse invece a incassare l'affiche per la costruzione dello stadio, quindi a entrare come socio di minoranza nel Milan gestendo la questione stadio. Questa affiche non è ancora nelle tasche di Berlusconi, però questa mi sembra un'ipotesi credibile e accreditata. 800 24 00 24, numero verde. Allora, aria di primavera per me coincide con l'aria del ciclismo. Comincia la Tirreno Adriatico, sono subito e saranno subito da oggi grandi duelli, ovviamente il più grande Nibali Contador, sentiamoli. Con i partenti, con i giocatori molto importanti come Alberto, come Nairo, quindi una Tirreno ad altissimo livello. La mia condizione è chiaro, non è al top, però cercherò di giorno dopo giorno di stare sempre meglio, vediamo un po' come rispondono anche le gambe. È il primo appuntamento importante della stagione, quindi serve anche per me stesso per capire a che punto sono con la condizione e vediamo poi giorno dopo giorno, come ho detto poc'anzi. Ma sono delle zone in cui ho pedalato anche in passato, ma è proprio la Tirreno che è una gara che ho sempre disputato, è una gara che mi piace moltissimo e quindi si cercherà di fare una bella corsa. Una Tirreno Adriatico muy disputada, el nivel de corredores es altísimo para la clasificación general, los mejores en grandes vueltas. Y bueno, yo creo que lo que hay que plantearse es ir día a día. Para mí Tirreno Adriatico es una carrera muy importante, especialmente también en la preparación para el Giro de Italia y bueno, espero tener buenas sensaciones. Ganar es difícil, los rivales son muy grandes. Quindi abbiamo sentito Nibali e Contador, c'è un altro ascoltatore che ricorda Montella, giusto, Montella tra i grandi attaccanti diventati grandi allenatori, ma possiamo andare avanti con l'elenco. Adesso però c'è Piero Augusto Staggi che ha già cominciato la primavera, direttore di Tutto Bici, nostra voce del ciclismo, ha già cominciato la primavera, la Tirreno Adriatico. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ero preoccupato, avevo detto Nibali, Contador, Montella. Corre anche Montella. No, non corre Montella, è il rilievo di un ascoltatore di prima. Per la Saxo Bank. Montella non risulta. Montella è molto amico di Ivan Basso. È molto amico di Ivan Basso. Sì. Non sto dicendo il vero. Però non corre la Tirreno Adriatico, semplicemente non un ascoltatore corre, prima ha detto. Mi risulta che Montella sia un appassionato di ciclismo e segue il ciclismo abitualmente con grande interesse, come tanti, come Reia, il nuovo allenatore dell'Atalanta, Guidolin, come Olivieri, sono tanti gli appassionati di ciclismo. Questa Tirreno Adriatico invece che cosa ti aspetti che dica? Guarda, intanto ti dico che sono a Lido di Camaiore, c'è una bella giornata e non c'è vento. Devo dire che sono arrivato proprio questa mattina io da Milano a Lido di Camaiore e ho visto il disastro. Avevamo visto le immagini di queste pinete veramente tirate giù dal vento della settimana scorsa, ma rivedere la situazione dal vero è molto molto più impressionante. In ogni caso oggi c'è il sole, non c'è vento, c'è tantissima gente, c'è una bella cronometro di 5,5 km. Oggi si prenderanno un po' le misure. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di vedere Contador già pimpante, perché l'ha fatto già vedere alla Ruta del Sol. Alberto è uno di quei corridori che ha una grande capacità a trovare la condizione in pochissimo tempo, per lui la difficoltà è mantenerla, però è anche vero che il suo primo obiettivo è il Giro d'Italia e quindi deve essere già in palle, lo è, ha vinto una tappa e ha perso la Ruta del Sol per soli 2 secondi da Chris Froome. Sì. Un pochino più in ritardo è Vincenzo Nibali, che l'ho incontrato poco fa, un po' scuro in volto per le vicende che sappiamo, la Fontana è nell'occhio del ciclone, una cosa che un po' le dispettisce, anche perché ci sono diversi giornalisti stranieri qui alla Tirreno Adriatico e quasi tutti fanno solo queste domande. Beh, sì, lui sì, sì, non sa adesso, cosa adesso dire questa... anche perché dice ragazzi è una questione politica. Adesso ci spieghi rapidamente questa questione politica, però prima chiudiamo il capitolo sulla corsa. Ci sono Contador Nibali, e c'è perché è bloccato dall'influenza, e c'è chi affila le armi per le grandi classiche di primavera. Esattamente, da Joaquin Rodriguez al buon Contador, ma soprattutto ad esempio uno come Fabian Cancellara, che ad esempio dovrà essere già in condizione tra meno di un mese, perché ci sarà il suo Fiandre, la sua Roubaix, le sue corse. Sta già bene, ha avuto la febbre la scorsa settimana, ma ha superato brillantemente diciamo la settimana di malattia. Ha fatto una discreta Strade Bianche sabato scorso e in questa Tirreno va alla ricerca della condizione migliore già per essere competitivo in corso. In realtà Cancellara me l'ha confidato, lui ha un chiodo fisso che si chiama Milano Sanremo, che è una corsa che è aperta e adatta a tutti i corridori di resistenza, quindi in grado di arrivare a 300 km, ma che sanno anche andare in salite, avere uno spunto veloce nel finale. E Cancellara è arrivato secondo e terzo, è uno che è abbonato a questa corsa, ma non l'ha mai vinta. Quindi ce l'ha nel mirino fatalmente. Mi ha detto testualmente: o quest'anno o mai più. Quindi, perché poi il tassametro corre, anche Cancellara non è più un ragazzino. Anche per lui, non solo per noi. Una cosa, per Augusto, per chiudere, riesci a spiegare ai nostri ascoltatori in due parole semplici cosa sta succedendo per la vicenda Astana, cioè a che punto siamo? La Astana è nell'occhio del ciclone dall'anno scorso perché ha avuto 5 positività, 2 corridori della squadra A sono stati trovati positivi e anche 3 corridori della giovanile. L'UCI, che è il governo mondiale del ciclismo, non ha gradito questa cosa, anzi la vede molto male. In più c'è un team manager che risponde al nome di Alexander Vinokourov, che è stato un grande corridore professionista nonché campione olimpico a Londra, che oggi è il referente del governo kazako e del team manager dell'Astana, che non è visto bene dai poteri forti del ciclismo e quindi ha ingaggiato un duello psicologico e non solo, e quindi ha chiesto ufficialmente alla commissione delle licenze di ritirare la licenza alla Astana. Adesso la Astana ha tempo fino al 20 marzo per redigere una memoria difensiva, presenterà tutta, la commissione indipendente delle licenze valuterà per la conferma della licenza, che vuol dire avere la patente per poter disputare la Champions League del ciclismo, che si chiama World Tour. Ok, superato ogni problema. Se invece sarà tolta la licenza, a quel punto la Astana si dovrà difendere e ricorrerà al TASC, al Tribunale dell'Arbitrato Sportivo, e anche lì ci sarà un dibattito, una lotta giuridica politica, e si andrà poco poco alla vigilia del Tour de France. Quindi per Nibali, tornando a Nibali, è la situazione peggiore di avvicinamento al grande appuntamento che è la difesa del Tour de France. Lui ha paura alla fine di tutto questo grande scontro politico-giuridico di non essere ammesso al Tour de France e quindi non poter difendere la sua maglia gialla. Certo, non è a livello psicologico il modo migliore di prepararsi e di vivere questa primavera ciclistica, ecco. Certo, grazie Pier Augusto, buon lavoro, ci sentiamo presto nei prossimi giorni, tanto è primavera, è ciclismo. Ciao Carlo. Ciao Pier Augusto Stagi. Voglio farvi sentire, questa è cronaca molto triste invece, sappiamo dell'incidente in Argentina, dello sport francese a lutto. C'è la voce di Federica Pellegrini sulla sua grande ex rivale Camille Muffat. Poi morire così dopo aver fatto tanti sacrifici, avendo vinto così tanto per il proprio paese, insomma, morire così stupidamente è veramente una cosa che mi fa rabbia, oltre che dispiacere per lei e per tutta la famiglia. È stata un'avversaria forte, campionessa olimpica a Londra 2012, plurimedagliata durante le edizioni dei mondiali, quindi assolutamente è un'avversaria fortissima. Questa Federica Pellegrini, e chiudiamo questa parentesi invece, per aprirne in chiusura un'altra che riguarda sempre il Kazakistan, non l'Astana, la squadra di Nibali, questo problema di squalifica, ma un Kazakistan che ci ha buttato fuori dalla Coppa Davis. Corrado Barazzuti di tennis, Corrado Barazzuti CT, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Passata la rabbia o ce n'è ancora tanta? Ma diciamo che più che altro sono ancora dispiaciuto, insomma, sì. Devo dire, digerire un pochino questa sconfitta, però insomma per il resto. Non preventivabile, non preventivata. Ma diciamo non preventivata, certo, uno non spera mai di perdere, però sì. Insomma, sappiamo che è un incontro difficile, è una squadra che a casa ha perso una volta, credo. Ma poi contro si presentava comunque duro, però poi è finita male, insomma abbiamo perso, però insomma diciamo giocando fino all'ultimo punto. Sì, perso giocando fino all'ultimo punto, un peccato perché comunque il tennis italiano, anche e soprattutto in campo maschile, stava vivendo una incredibile primavera, quindi siamo rimasti tutti leggermente scioccati da questa sconfitta con il Kazakistan. Però stiamo provando a richiamare CT Barazzuti perché l'audio non era buono. Intanto, eccolo qui, è tornato il CT. No, stavo dicendo che stiamo vivendo una primavera tennistica e quindi questo è arrivato un po' come un temporale. Cambierà qualcosa? Questo temporale? Ma non lo so in che senso cambierà qualcosa. Non lo so, dal punto di vista degli uomini magari. Non lo so, comunque. Niente, purtroppo non riusciamo a parlare con il CT, ci riproveremo nei prossimi giorni. Io comunque lo ringrazio, Corrado Barazzuti. Voglio invece in chiusura darvi questa, sapete che c'è in corso questa guerriglia tra Sky e il Napoli già da qualche domenica. Oggi in conferenza stampa i rappresentanti del Napoli, ma sono, sapete, regole diverse, vigilia di Europa League, i rappresentanti del Napoli hanno risposto alle domande dei colleghi di Sky. C'è stata però questa così precisazione di Massimo Mauro, lo scalzo era nato tra Mauro e Benitez, e il Napoli ha detto noi con Sky non parliamo più. Sky ovviamente dice noi ci mettiamo i soldi, quindi tu fai piacere di parlare. Ebbene, Mauro con onestà, in questo caso intelligenza, ha spiegato: già il giorno dopo mi sono pentito di aver dato a Rafa del disonesto, ma ogni commento, dichiarazione a caldo ha sempre pesato, tante volte contestualizzato. Ripeto, il giorno dopo mi ero pentito perché Benitez aveva spiegato come mai fosse non aveva spiegato come mai fosse così arrabbiato, taciturno davanti alle telecamere. Ha detto di avercela con i suoi giocatori per i troppi errori commessi nella gara con il Torino. Se lo avesse chiarito in zona mista alle nostre telecamere non sarebbe accaduto nulla di quello che poi è stato. Invece ho rivisto i 7 minuti del suo intervento a Sky e da lì per me si percepiva che ce l'avesse con l'arbitro, dicendo che era stanco di certe cose, non voleva parlarne. Da lì è nato questo casus belli che speriamo insomma si risolva più presto, perché forse è durato fin troppo. Finito anche il nostro programma. Sentiamo domani, ragazzi. Tutti convocati dopo il GR delle 14. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ciao. Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani, provincia di Bari. Sì,